Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, come vi hanno già anticipato i nostri GR, verso le 2 di pomeriggio, 2 e 11 minuti per la precisione, si è avuta notizia dell'accordo tra le banche centrali principali al mondo, nel senso della Federal Reserve americana, della BCE e altre 4 banche centrali, che hanno deciso di ridurre di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di swap in dollari. Le altre banche, per la precisione, sono la Banca del Canada, la Bank of England, la Banca del Giappone e la Banca Centrale Svizzera, quindi insomma le principali banche centrali al mondo, se escludiamo la Banca Centrale Cinese. E che cosa vuol dire questo, tradotto in termini concreti e chiari? Vuol dire dare maggiore liquidità al sistema finanziario mondiale, perché tu appunto levi di 50 punti il tasso di interesse praticato sulle operazioni swap in dollari e quindi far respirare il sistema finanziario mondiale, nello specifico le banche anche europee, che sono in asfissia, non riescono a trovare prestiti, non si prestano i soldi tra di loro e devono ricorrere spesso al tasso overnight. Allora, questa decisione, poi c'è il giallo nel giallo, ma andiamo sulle notizie in primo luogo. Ha fatto girare, come si dice in gergo, tutte le borse europee e non solo, ma a quel punto erano aperte solo le europee, che erano deboli, adesso guadagnano tutte il 4%, più 4% Francoforte, anzi quasi il 5% Francoforte, il 4,96%, Parigi più 4%, Milano quasi il 4%, il 3,90%, Londra il 3,60%. Poi ha aperto l'America, è andata benissimo, più 3,60% il Dow Jones in questo momento. Le conseguenze sono state anche si sono viste anche nella riduzione degli spread italiani, ma non solo. Gli spread sono scesi a 470 punti per quello che riguarda l'Italia. Nel frattempo si è avuta anche notizia, questa invece riguarda più le differenze all'interno dell'Europa, che per la prima volta almeno dal 1995, da quando esiste la serie, il rendimento dei titoli di Stato tedeschi è sceso sotto lo zero. E pensate che l'obbligazione con scadenza dicembre 2012 ha segnato un calo di 12 punti base. Praticamente diventano negativi i rendimenti, perché se ci sommi anche le imposte e le commissioni bancarie, se compri un'obbligazione tedesca adesso ci vai a perdere con un rendimento del genere. Questo poi ha delle modifiche sullo spread, forse vale la pena anche chiarirlo di nuovo: lo spread non è un dato assoluto, è una differenza appunto spread tra quello che rende il BTP tedesco e quello che rende il BTP italiano, il bonus spagnolo e quant'altro. È ovvio che se per motivi suoi cala il rendimento del BTP tedesco, aumenta lo spread anche se non rende di più il BTP italiano, semplicemente che cala quello che viene preso come riferimento. Le borse, diciamo, più 3,80-3,90%, in evidenza soprattutto la Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 11%, Mediobanca più 7,70, Azimut più 6,60, Lottomatica più 6,30, il 6% lo guadagna Fiat Industrial, il 5,80 la Popolare di Milano, il 5,5% Fiat e anche Intesa San Paolo, il 5,2% invece il rialzo del Banco Popolare e di Mediaset, il 4,80% quello di Prismian e il 4,70% quello di Buzzi Unicem. Chiudiamo con chi guadagna più del 4% e si chiamano Saipem più 4,60%, Mediolanum più 4,5%, Tenaris anch'essa più 4,5%, Finmeccanica più 4,30% e c'è Tolz che è vicina a un rialzo del 4%. Di negativo non c'è niente oggi, se non titoli che guadagnano meno della media, Luxottica più 0,60, Fondiere Assai più 1,60%. In assoluto il miglior titolo in questo momento è Saras, e quindi le raffinerie dei Moratti più 15,2%. Il peggior titolo, Seat pagine gialle, ormai più che gialle sono pagine nere, meno 15%, quasi meno 14,60% a 3 centesimi di euro per azione. Magari qualcuno si ricorda ancora quando ai tempi della cosiddetta New Economy, che di New aveva molto poco, alla fine Seat arrivò, Radio 24 era appena nata, a 7 euro per azione. Allora, di nuovo questa crisi assume contorni molto strani, perché le borse prima calano, poi risalgono. Non ho visto da nessuna parte indicazioni tali da dire è la fine dell'attacco sulle banche europee. In realtà si tratta, mossa importantissima perché soprattutto coordinata, ma si tratta di un così, di dare un po' di fiato alle banche europee, non certo di risolvere i problemi del debito dei paesi dell'area euro. Tra l'altro, e qui andiamo nel giallo, secondo quanto pubblica il sito della rivista americana Forbes, la decisione delle banche centrali sarebbe stata presa anche perché ieri notte un'importante banca europea, e qui si apre così il toto nome, sarebbe andata molto vicino a una situazione di fallimento, trovandosi in grossissime difficoltà nelle sue esigenze di liquidità a breve termine, non trovando qualcuno che le prestava denaro. Sarà vero o non sarà vero, comunque è una crisi un po' strana. È una crisi un po' strana questa perché, dico, voci, non voci, insomma. Se ci fosse un orientamento chiaro non dovremmo vedere movimenti dal meno 2 al più 3,8-3,90%. Volete sapere dell'euro? L'euro è in leggero recupero, 1,34,70, e però a mettere in guardia c'è stato oggi il commissario europeo agli affari economici europei, Olli Rehn, che ha detto siamo entrati nei 10 giorni critici dell'euro, i 10 giorni che sconvolsero il mondo, era un famoso libro, e questi sono i 10 giorni critici dell'euro. Hanno ragione gli ascoltatori che al 349-238-6666 citano il fatto che a fine gennaio vi sarà forse l'appuntamento più importante per l'Italia. Dovremmo andare a rifinanziare quasi 40 miliardi di debito, e lì si vedrà se tiene l'Europa più che e quindi anche l'euro, oppure i tedeschi mantengono la loro linea del rigore e a questo punto l'euro va obiettivamente in difficoltà. Comunque, dicevo, crisi strana. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. L'oro in rialza, $1,727, il petrolio è di nuovo sopra i $100 al barile. Qualche dato che arriva dagli Stati Uniti, un dato sui compromessi per l'acquisto di case migliore delle attese, un dato sui posti di lavoro buono, più che buono, è un sondaggio, però dovrebbero essere stati creati nel mese di novembre 206.000 posti di lavoro, sarebbe l'aumento maggiore dal 2011. Anche l'indice dei responsabili degli acquisti di Chicago, che è un termometro per sapere come vanno i consumi, un indicatore diciamo anticipatore, va bene, sale a 62,6 punti. E invece dalla Cina è arrivata la notizia che la Cina ha allentato i requisiti sulle riserve valutarie delle sue banche. Perché questo? Perché Pechino teme molto per l'Europa, o meglio, teme per un rallentamento delle sue esportazioni verso l'Europa, a causa insomma della stagnazione barra recessione che attraverserà l'area euro il prossimo anno. Allora, mamma mia, subito. Non abbiamo mai detto che lo spread non sia niente di grave, abbiamo detto, se ascoltate però ogni tanto invece di polemizzare, abbiamo detto che lo spread è una differenza, quindi può salire non solo come è avvenuto in questo periodo perché aumenta il rendimento delle nostre obbligazioni, quindi sale la differenza tra quanto costa a noi indebitarci e quanto invece non costi la Germania, ma può salire anche se cala il rendimento delle obbligazioni tedesche. Il dato di oggi era questo. Lo 0,04%, che vuol dire un rendimento negativo se ci applichi le tasse e le commissioni bancarie, questo abbiamo detto. Dicevamo però del vertice Ecofin e di altri interventi. Allora, Olli Rehn ha detto, attenzione, ci sono, d'ora in avanti sono 10 giorni critici per l'euro, è stato anche il nuovo appuntamento europeo per Mario Monti, che appunto ha partecipato all'Ecofin, un giudizio favorevole arrivato dall'Europa alle misure anticrisi, però di nuovo con forza l'ipotesi, non è neanche più un'ipotesi, visti i giornali oggi, un'ipotesi di una manovra tra i 20 miliardi, 20-25 miliardi, e Monti però ha ribadito che l'Italia arriverà al pareggio di bilancio, e cioè al deficit pari a zero nel 2013, e che lunedì prossimo verrà presentata la manovra in Consiglio dei Ministri, anche le riforme strutturali. Ho confermato l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, ho sottolineato che nella vasta operazione di politica economica che adotteremo lunedì ci sono misure intese per quanto riguarda la disciplina del bilancio pubblico a assicurarsi che le misure prese dal precedente governo siano pienamente e effettivamente implementate e che le ulteriori riforme strutturali che intendiamo introdurre lunedì siano disegnate in modo tale da avere effetti di riduzione del disavanzo pubblico già nel breve termine. Ho ricordato poi quali sono i capitoli nei quali condurremo le riforme strutturali che sono in queste ore in preparazione. Contrariamente a quello che forse si può pensare, ho dato un grado di dettaglio non superiore ma inferiore a quello che ho utilizzato nei miei precedenti momenti di comunicazione in Italia, a cominciare dalle presentazioni in Parlamento. Allora, devo dire una cosa, voi sapete che abbiamo sempre in qualche modo guardato con scetticismo a chi diceva Monti deve fare in fretta, dategli tempo. 2 settimane, 3 settimane non sono, visto che prima il tempo il governo precedente ce l'ha avuto, non sono un tempo lunghissimo, e devo dire che sia il PDL che il PD hanno fatto dichiarazioni in questa linea. Però una cosa, permettetemi, ci ha lasciato un po' perplessi vedere oggi sui giornali tutte queste anticipazioni della manovra. Allora, se la linea, così avevamo capito, di Mario Monti è tutti zitti ministri finché non presentiamo la manovra, intanto la settimana scorsa l'ha mezza presentata alla Merkel e a Sarkozy, e da qui il giudizio anche di Angela Merkel. Oggi sui giornali si va nel dettaglio delle ipotesi, c'è chi scrive 25 miliardi, c'è chi scrive 20 miliardi, c'è chi va oltre le pensioni, che sembrano ormai il dato più scontato, ma anche lì con molte differenze, e si spinge a una patrimoniale light, una patrimoniale leggera, sopra 1,5 milioni di euro. Ecco, meno cose escono, meglio è, cioè si crea solo confusione, l'abbiamo già visto fare dagli altri governi politici. Allora magari un governo tecnico stesse ancora più sotto riserbo, oppure presentasse tutto prima o in contemporanea, cioè potevi presentarlo ieri qui e oggi a Bruxelles, oggi a Bruxelles, domani in Italia. Insomma, è stata un po' strana la dinamica. Arriveremo allo snodo dell'8-9 dicembre lo snodo di lunedì, che praticamente della finanziaria si sarà scritto da una settimana, ecco. Se permette Monti, un po' più di riserbo su questo. Se ce la fa. E se no, se iniziano a uscire le cose, fa una conferenza stampa, fa il CDM. Sì, non è, a chi scrive non è vero che i giornali inventano, sulle pensioni c'è un certo consenso, però insomma, o le cose si riescono a tenere segrete e allora va bene, o se no, se devono uscire a spizzichi e bocconi, falli uscire tutti una volta. Quindi mi riferisco all'aumento di 1/2 punti percentuali dell'aliquota per i lavoratori autonomi, mi riferisco anche lì 1-2 punti percentuali agli anni della contribuzione per accedere alla pensione di anzianità da 40 a 41, addirittura c'è chi ha ipotizzato 43, e poi blocco di un anno del recupero dell'inflazione sui trattamenti pensionistici, contributo di solidarietà. Insomma, domani se ne occupa il Sole 24 Ore della mappa delle nuove pensioni, però non mi ha lasciato personalmente un po' perplesso il modo in cui stanno uscendo le cifre su questa manovra. Sembra un quello che capitava nei governi politici, quindi Prodi e Berlusconi. Comunque Mario Monti sullo snodo dell'8-9 dicembre, ciò che sarà deciso, dice Mario Monti, avrà il verdetto dei mercati. Io vedo lo snodo dell'8 e del 9 dicembre effettivamente come fondamentali. Sappiamo tutti che ciò che sarà deciso o non deciso avrà un primo verdetto nei mercati. I mercati, che io non ho mai demonizzato, anche se ho sempre cercato nelle piccole parti che erano di mia competenza in precedenti ruoli di regolarli e di disciplinarli e di non prenderli come una divinità, hanno tuttavia il merito di rappresentare anche una percezione collettiva sulla serietà di ciò che i singoli paesi o un intero continente stanno facendo. Naturalmente non è una valutazione quotidiana, è una valutazione più complessa che racchiude molti elementi. Comunque sicuramente il 10 avremo una visione presso i mercati sulla bontà o meno di ciò che avremmo fatto l'8 e il 9. Infine sul tema IFSF, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario, sono stati fatti dei passi avanti, non mi sento di dire che ci sia ancora chiarezza assoluta su ogni aspetto di questa importante coorte di istituzioni finanziarie vecchie e nuove che l'Europa può e deve dispiegare meglio e a brevissimo termine e con coerenza perché venga da questo lato un contributo alla soluzione dei suoi problemi. Così Mario Monti. Allora io non ho capito un passaggio, poi magari ve lo faccio risentire, perché Mario Monti dice l'8 e il 9 saranno lo snodo fondamentale e poi il 10 di dicembre avremo la visione dei mercati. Ora, a memoria ricordo, perché l'11 è banalmente il mio compleanno, il 10 è sabato, di che mercati avremo la visione. No, lo dico così per precisione, forse si riferiva al 9, che è un venerdì, ma il 10 non si ha nessuna visione, casomai ne riparliamo il 12. Può aver ragione chi scrive al 349-238-6666, tenere completamente segreta l'ipotesi di manovra correttiva di 20-25 miliardi creava danni sul mercato. Però va bene, allora se devi fornire dati, elementi perché il mercato si tranquillizzi, fornisci tutti. Non ho detto che va tenuta segreta, non mi è piaciuto il fatto che da quasi una settimana continuano a uscire ipotesi che spaventano e basta, creano confusione, sono difficili da seguire. Visto che se l'ha detto, facciamo subito, presto, e presentiamo tutto il pacchetto in Parlamento, immaginavo una cosa così più dirompente, meno sgocciolata nel corso, come notizia nel corso delle giornate. Vabbè, delle pensioni dei parlamentari col contributivo da gennaio 2012 non ho nessuna voglia di parlare, ho visto anche alcuni parlamentari che senza un grosso senso della realtà si lamentano per dover rinunciare a quello che era il regime precedente. i vitalizi dei parlamentari verranno calcolati con il metodo contributivo a partire dal 1 gennaio 2012 e sale anche l'età per accedere all'assegno da 50 a 60 anni per chi ha ottenuto più mandati e 65 anni per chi è stato eletto in una sola legislatura. Voglio dire, non capisco il tema, vorrei anche vedere chi si lamenta. Praticamente chi entrerà in Parlamento per la prima volta nel 2013 invece di percepire dopo 5 anni un vitalizio di 2.486 euro lordi riceverà una pensione da 900 euro lordi a 65 anni. Dopo 15 anni di servizio invece un parlamentare intascherà 2.500 euro lordi al mese invece di 7.460. Ma voglio dire, anche 900 euro lordi a 65 anni per avere fatto il parlamentare 5 anni è tanta roba, no? Cioè, uno il parlamentare non lo fa come lavoro in senso stretto, lo fa come missione, perché sente così quella che è la voglia di rappresentare il popolo. È giusto che abbia un vitalizio, ma... Vabbè, però Pier Ferdinando Casini ha detto non inseguiamo la demagogia, si ottiene su questi temi un applauso immediato ma non si risolvono i problemi. Sentiamolo questa mattina a Radio 24. Credo che questo sistema previdenziale per i parlamentari fosse di estremo privilegio. C'è stato un sacrificio ieri per iniziativa dei presidenti di Camera e Senato, ce ne dovranno essere altri, benissimo, ce ne saranno altri, però cerchiamo di evitare di rincorrere la demagogia, perché con la demagogia sì, si può avere un applauso, ma poi non si risolvono i problemi del Paese. Invece una questione essenziale che le forze politiche debbono affrontare nelle prossime ore è il tema della riduzione dei parlamentari. Noi abbiamo 630 parlamentari alla Camera e più di 300 al Senato. È chiaro che è una sproporzione, cioè 1000 parlamentari in un sistema di bicameralismo perfetto. Anche qua non c'è un paese del mondo in cui Camera e Senato facciano gli stessi cose. Noi dobbiamo trasformare il Senato in Senato federale, ridurre i numeri dei parlamentari, si può arrivare a fare una riduzione di un terzo dei parlamentari in progressione, magari progressivamente attraverso due legislature. Sì, figuratevi se non siamo d'accordo sul fatto di ridurre il numero di parlamentari. Noi abbiamo il doppio degli Stati Uniti e non mi sembra che siamo il doppio degli Stati Uniti come popolazione e come dimensioni. Personalmente demagogia sì, fino a un certo punto, perché grazie alla demagogia di molti miei colleghi e in maniera molto modesta anche nostra, che finalmente il tema della casta, dei costi della politica è sto preso. Cioè, io avrei voluto vedere, e lo dico con massimo rispetto a Casini, cosa sarebbe successo se nessuno ne avesse scritto. Probabilmente il vitalizio non l'avrebbero toccato. E allora permettetemi, viva un po' di demagogia, se vogliamo chiamarla così, se poi questo porta a una pressione popolare, far capire che la cinghia o la stringono tutti o se no arriva addosso qualcuno. Permettetemi, demagogia fino a un certo punto. Comunque, così Pier Ferdinando Casini questa mattina da Oscar Giannino, sempre a Radio 24 e sempre questa mattina Luca Zaia, ospite di Alessandro Milano 24 mattina, un passaggio sul giudizio sul governo dei banchieri delle università private. Sembra chiaro che sotto un profilo squisitamente umano, poi uno quando fa il governo, se non ha particolari dettami della politica o di equilibri, chiama le persone delle quali si fida e che conosce. Evidentemente Monti ha fatto una scelta sotto il profilo della finanza, dei banchieri e delle università private. Oggi l'università statale, la scuola pubblica è in mano totalmente a chi dirigeva o a chi comunque rappresenta la scuola privata. Ma lo diciamo soprattutto alla piazza, che è riuscita a fare tutto il contrario di tutto, protestare contro i banchieri, se non ricordo male, il 14 ottobre da indignati, e io ho condiviso questa protesta, e poi ritrovarsi dopo neanche un mese a protestare a favore dei banchieri. Cioè questo è il governo di banchieri e università private, lei dice? Beh, guardi, cioè non è che serve un premio Nobel per dirlo, cioè basta guardare il curriculum. Magari sicuramente le professionalità sono di elevatissimo spessore, però se noi italiani siamo abituati ad alte professionalità. Oggi dobbiamo vedere i risultati. Allora, massimo rispetto anche per Luca Zaia, molte volte nostro ospite, però mi passi questa cosa. È verissimo che Corrado Passera è un banchiere e non ci vuole né un premio Nobel né Zaia per dirlo. è verissimo che Mario Monti venga dalla Bocconi e non solo lui, ma a parte il fatto che ci sono anche altre università rappresentate, Elsa Fornero non viene dalla Bocconi, per esempio. Però vuol dire, se iniziamo a ragionare così, allora uno doveva dire che il governo di Berlusconi era il governo dei dipendenti di Mediaset, cioè non ha nessun senso. Uno valuta il governo per quello che fa, non per dove provengono le persone, se no torniamo al complotto pluto giudaico massonico di qui sopra. E poi ricordo che nel governo Berlusconi c'era anche un ministro dell'agricoltura con un'inchiesta pesante per mafia. Allora, se uno continua a dire queste cose, non ne usciamo più. Una nota e poi andiamo col meteo. L'Istat sulla disoccupazione è salita a ottobre all'8,5%, livello più alto dal maggio del 2010. A ottobre ferma invece l'occupazione più 0,2%. Quello che preoccupa una volta ancora è la disoccupazione giovanile, 29,2%, il tasso praticamente fermo. Quanto all'inflazione, qui una bella riflessione dovrebbe farla anche la Banca Centrale Europea e la Bundesbank: l'inflazione non esiste in questo momento in Europa, non è un tema solo per i tedeschi. L'inflazione che c'è è tutta importata, cioè il prezzo del petrolio, l'Istat di oggi lo fotografa bene, a novembre cala l'inflazione, te credo, nessuno compra, come fanno a aumentare i prezzi? Più 3,3%, era al 3,4% nel mese di ottobre, ed è quasi tutta dovuta al prezzo del petrolio. Il gasolio ha fatto più 21%, la benzina ha fatto più 16%. Se andiamo a vedere l'inflazione vera, quella dei beni che uno può liberamente comprare, quelli che si muovono liberamente, siamo quasi in deflazione, se non in deflazione, in sto paese. Meteo, pubblicità, poi parliamo dell'ICI alla Chiesa, ho dimenticato di annunciarlo perché insomma c'è polemica anche su questo, ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco commenteremo questa borsa che ha girato completamente dopo la notizia dell'accordo raggiunto tra le principali banche centrali europee al mondo per ridurre di mezzo punto percentuale la tassazione sugli swap. L'interesse sugli swap più 4,40% Milano in chiusura, più 4,20% Parigi, più 5% Francoforte, più 3% Londra, e il 3,70% lo guadagnano anche gli Stati Uniti. Grande respiro per tutte le banche che sono tutte in netto rialzo in Europa, soprattutto in Europa, 50 punti base di riduzione sul tasso di interesse sulle operazioni swap in dollari. Prima però un tema che più volte ci avete sollecitato, lo facciamo oggi, il tema dell'ICI alla Chiesa. Non è uscito dalle indiscrezioni, non sappiamo se Mario Monti se ne stia occupando, però vediamo di capire di che cosa stiamo parlando. Allora, c'è una legge varata dal governo Prodi nel 2006, che è una legge un po' ambigua, perché dice non devono pagare l'ICI gli immobili adibiti a finalità non esclusivamente commerciali, gli immobili chiaramente religiosi, di proprietà della Chiesa, non adibiti a finalità esclusivamente commerciali. Questa ambiguità, perché non esclusivamente che vuol dire? Ha portato Bruxelles a multare l'Italia, la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione da parte della UE per gli aiuti di Stato incompatibili con le norme sulla concorrenza. Non c'è ancora in realtà una multa, c'è una procedura di infrazione. Secondo l'ANCI, i comuni italiani, solo il 10% degli immobili della Chiesa Cattolica pagano di fatto l'ICI, con un risparmio per la Chiesa di almeno 400 milioni di euro l'anno, 25 milioni nella sola Roma. Stiamo parlando di un patrimonio complessivamente che è il più grande al mondo come patrimonio immobiliare, Insomma, San Pietro questo lo spiegò bene. E allora il 20% del patrimonio immobiliare complessivo sarebbe riconducibile comunque alla Chiesa Cattolica, 1 miliardo di metri quadri divisi in 100.000 immobili per un valore di 1.200 miliardi di euro. Complimenti. 9.000 scuole cattoliche, 4.712 cliniche, centinaia di ospedali, 26.300 strutture ecclesiastiche. A Roma un quinto della città a livello immobiliare sarebbe riconducibile alla Santa Sede, centinaia di scuole, 18 ospedali, 400 istituti di suore, 300 parrocchie, 200 chiese, 200 case dove trovano ospitalità i turisti, 65 case di cura, 20 case di riposo, 90 istituti religiosi, la congregazione di propaganda fide a immobili per un valore di 9 miliardi di euro a Roma. Dottoressa Patrizia Clementi, che è dipendente alla Diocesi di Milano, settore tributario dell'Avvocatura della Diocesi, buonasera. Buonasera. Allora, fermo restando che gli istituti e gli edifici religiosi non pagano l'ICI, questo ci può stare. Non trova che sia un po' strano, non so, che per esempio le 200 case per ospitare i turisti a Roma e anche le cliniche riconducibili alla Chiesa Cattolica non paghino l'ICE, perché ci sono altri vantaggi: l'esenzione dell'IRES che vale tra i 500 e i 900 milioni di euro l'anno, il canone RAI, e vabbè, la bolletta dell'acqua lo paga lo Stato, quello addirittura, vabbè, no, adesso, quello, le cito tutte, non è che voglio far pagare l'acqua, patti lateranensi, no, però mi dica solo sull'ICI, è ambigua la norma? Le dico subito sull'ICI, però dica. Vorrei dire, non è vero che l'IRES è l'esenzione totale, sarebbe una riduzione al 50%, ed è una riduzione al 50%, lei ha citato le cliniche, che spetta anche agli ospedali, indipendentemente dal soggetto che li gestisce. Non è vero che c'è l'esenzione dalla tassa della televisione, non è vero che non pagano l'acqua. Ecco, quindi adesso andiamo. Io ricordavo che fosse l'articolo 6 dei patti lateranensi, ma mi correggo volentieri. Mm-hmm. Parliamo dell'ICI. Sì. Allora, qual è il punto? Il punto è, perché l'Europa ha detto, attenzione, qui voi state facendo un aiuto di Stato. Sta verificando, ha aperto le... Però il problema è l'ambiguità della legge, chiedo. Allora, forse anche qui va fatta prima una premessa. Si parla, in riferimento a questa esenzione, degli immobili della Chiesa esenti. Nell'ICI c'è, se vogliamo, una disposizione che può essere definita così, e non è quella in oggetto all'esame della Commissione europea come aiuti di Stato, e non riguarda solo gli enti della Chiesa Cattolica, ma in generale gli enti religiosi, è l'esenzione che riguarda gli edifici di culto e le relative pertinenze. Questa esenzione, che ripeto non è oggetto di verifica circa la sua qualifica, e non è mai neanche oggetto di contestazione nelle polemiche che di volta in volta ogni tanto riemergono, si può dire destinata esclusivamente agli enti religiosi, perché sono quegli enti, non sono solo della Chiesa Cattolica, ma in Italia evidentemente sono la maggioranza, e sono la maggioranza anche di quella quantità di immobili che lei ha citato. Gli immobili della parrocchia, per la maggior parte, quasi esclusivamente, sono esenti, in quanto sono edifici di culto e relative pertinenze, e per pertinenze si intendono gli oratori, le strutture dove la parrocchia svolge le sue attività di incontri, di catechesi, le attività caritative. Ecco, in quei numeri che lei ha citato, certamente la maggior parte degli immobili relativi alle parrocchie sono quelli. Allora, no, io guardi... Per quello che riguarda gli immobili adibiti al culto religioso, che sia cattolico, protestante... Va bene, si capisce, adesso uno potrebbe essere d'accordo o non d'accordo, ma si capisce la ratio, cioè un immobile che serve a un culto religioso, non mettiamo l'ICI su questo immobile, okay. Traduco. Io mi concentravo su... soltanto perché in quei numeri che lei citava all'inizio sono inclusi anche questi. Sì, no, io citavo tutte le proprietà immobiliari. Dopodiché prendiamo dopo il traffico, perché adesso devo dare la linea al traffico, il caso delle 200 case dove trovano ospitalità i turisti a Roma, in cui si paga, in cui... Allora, quelle di immobile adibito a culto religioso c'è molto poco, cioè c'è una specie di reception e uno ci va a dormire. Vorrei capire se su quelle, cioè scorporando tutto il resto, se su quelle ci sia un'applicazione della norma a favore. Diciamo, la norma, l'abbiamo detto, è ambigua perché utilizzando il termine esclusivamente, non esclusivamente commerciali, apre la stura a tutto. Mi dà una risposta cortesemente dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:49 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dottoressa, sugli immobili alla chiesa, prendiamo il caso delle 200 case per ospitare i turisti o delle 450 scuole paritarie a Milano. Lì è difficile definirli come immobili per il culto religioso, no? Infatti è un'altra previsione normativa di esenzione che, vorrei ribadire ancora una volta, non riguarda soltanto gli immobili della Chiesa, ma riguarda gli immobili di tutti gli enti non commerciali, quindi certamente le parrocchie, gli istituti religiosi, gli enti appartenenti al mondo della Chiesa Cattolica, ma anche, che so, le ONLUS, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche, le fondazioni, le associazioni di promozione sociale, cioè il mondo del non profit. Quindi devono essere immobili appartenenti a questi enti e da questi enti destinati a una serie di attività di rilevante valore sociale, le assistenziali, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali, sportive, ricreative. Questa norma qui esiste esattamente dal 92, quando la legge è stata istituita. La precisazione del governo Prodi, cui lei ha fatto riferimento, diceva soltanto, allora la legge dice gli immobili appartenenti agli enti non commerciali e totalmente destinati a queste attività che ho citato sono esenti dall'ICI. La norma che lei ha citato aggiunge sono esenti dall'ICI a condizione che quell'attività lì sia svolta in maniera non esclusivamente commerciale. Ok, allora no, io non ho mai detto che diciamo, la Chiesa Cattolica si stia muovendo al di fuori della legge, sto parlando diciamo di un tema un po' diverso che lei, certo, no, che lei capisce molto bene. Non è solo la no, no, no, vabbè, però, non è solo per la Chiesa Cattolica. No, ho capito, ma lei sa che profit. Dire sì, il mondo non profit. Allora, ragioniamo sul mondo non profit, perché sono disposto a fare lo stesso ragionamento anche verso il non profit. Se il non profit è veramente non profit, ben venga. Però adesso, dottoressa Clementi, lei non mi può dire che le scuole paritarie in cui si paga una retta sono non profit o che l'albergo in cui io pago comunque una quota per dormire è non profit. Cioè, non profit allora, per me è chi fa... No, volevo fare un'altra domanda, però se posso agganciarmi a questo. Sì. Detto ciò, e fermo restando che voi operate interpretando correttamente la legge italiana, anche se la Commissione europea ha aperto un'inchiesta su questo... In questo momento storico, in cui si chiederà a brevissimo, a pochi giorni, al Paese un sacrificio complessivo, in cui la stessa CEI ha detto attenzione, moralità nel nuovo politico deve essere di esempio, certo, lo ha ricordato più volte, non sarebbe secondo lei un gesto forte, importante, dire in quelli che sono luoghi non strettamente di culto, applicateci l'ICI, perché è tutto il Paese che è in difficoltà, si va verso un innalzamento dell'età pensionabile, non aumento, non adeguamento inflazionistico delle pensioni, una patrimoniale, cioè non sarebbe un gesto? Allora, non c'è dubbio, questa è una legge che ha quasi 20 anni di vita, il legislatore può sempre decidere di cambiare le leggi o perché cambia la situazione sociale, per esempio i luoghi di emergenza o di interesse sociale non sono più quegli 8 ma sono di più, di meno, o perché cambia la situazione economica come quello il caso che lei citava. Ma allora si cambia la legge, si cambia per il futuro e non si accusano gli enti che la applicano di utilizzare in maniera scorretta o di avere privilegi ingiusti. Va anche, secondo me, tenuto presente che comunque la crescita, o meglio, la necessità di risanare i conti pubblici anche riducendo le agevolazioni al mondo del non profit, e insisto, il mondo del non profit, non è comunque una soluzione indolore. Per esempio, infatti, voglio dire, rinunciare a una parte del gettito da parte dei comuni. No, ho capito, ma perché lei chiama non profit un albergo che ospita turisti o una scuola che allora, fa pagare la retta? No, vorrei capire, parlando, perché per me non profit è la comunità di recupero dei tossicodipendenti, cioè è un'altra cosa. Non profit vuol dire un soggetto che non ha un lucro soggettivo. Io so che lei vuole parlare delle strutture ricettive. No, d'accordo. Ricettive, ma anche le scuole. Cioè, va bene, per facciamo me... così. Il caso delle strutture ricettive, che cosa precisa? C'è una circolare ministeriale del 2009 che ha precisato che cosa deve intendersi per non esclusivamente commerciale, che in effetti lei ha ragione, è una definizione difficile da comprendere. Nel caso delle strutture ricettive ha detto la legge prevede la agevolazione, l'esenzione per quelle strutture di ricettività complementare, quindi non per gli alberghi. Quali sono quelle strutture di ricettività complementare? Sono quelle che le norme regionali chiamano case per ferie, case ostelli per la gioventù. Quale caratteristica hanno? Due, devono essere rilasciate necessariamente a un ente non profit o anche a una società, ma limitatamente all'ospitalità dei propri dipendenti, le colonie, no? Secondo, non devono avere un bacino di utenza illimitato, quindi faccio l'esempio, è la casa per ferie della parrocchia che porta su i suoi ragazzi o è la casa per ferie del collegio che manda su i suoi alunni. Nei casi in cui ciò non è applicato, nei casi in cui non è applicata la norma in questo modo, È un comportamento scorretto, ma il comportamento scorretto non vuol dire che è scorretta la legge. Gli alberghi non sono esenti. Cioè io ho dormito una volta, le faccio un esempio, in una, poi la risposta magari me la dà dopo il GR se ha la cortesia di attendere ancora un attimo. Ho dormito in una casa in cui ho pagato, non mi ricordo, 100 euro, una casa di ospitalità, diciamo, è un albergo a tutti gli effetti, semplicemente gestito dalle suore. Io vorrei capire, quella roba lì deve pagare l'ICI come qualunque altro albergo oppure no, secondo lei? E però mi risponda dopo il GR, per favore, anche alla seconda parte della domanda, ossia non sarebbe anche un segnale da dare al di là, diciamo, della legge, vista la situazione, visto il momento e vista l'attenzione che ha la Chiesa Cattolica ai temi sociali? 349-238-6666 per i vostri sms, ci risentiamo fra qualche minuto. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, per arrivare adesso anche al commento di borsa. Tanto la giornata l'abbiamo ampiamente raccontata all'inizio programma, ottima, più 4,40% a Milano. Vorrei concludere però l'approfondimento sul tema degli immobili della Chiesa Cattolica esenti da ICI, chiaramente non gli immobili di culto, e ringrazio anche per l'attesa la dottoressa Patrizia Clementi, che è appunto dipendente della diocesi di Milano, settore tributario dell'avvocatura della diocesi. E dottoressa, prima del GR le avevo chiesto, ma sugli immobili, appunto, le scuole paritarie in cui si paga anche una retta, o gli immobili che sono in tutto e per tutto equivalenti a degli alberghi, lì forse, insomma, lì ci andrebbe pagata, e comunque, visto il periodo, non sarebbe anche così auspicabile un gesto della Chiesa Cattolica, vista l'attenzione che ha la Chiesa Cattolica e che le viene riconosciuta nel sociale? Sì, allora, stavamo parlando degli immobili destinati alla recettività, che sì, pure fanno parte dell'elenco delle ipotesi di esenzione. La circolare ministeriale a cui facevo riferimento del 2009 li distingue in due categorie: la ricettività diciamo turistica e quella sociale. In quella sociale ci sono i centri di accoglienza, i pensionati per parenti di malati ricoverati in ospedali distanti dalle proprie abitazioni, che non penso siano messe in discussione. No. Quella che fa più problema è quella di tipo turistico, ma ripeto, basta applicare la legge, non sto dicendo che non sia applicata, ma per dire qual è l'ambito di esenzione: sono quei luoghi non alberghieri ma di ricettività, dove l'accessibilità, dice la circolare, è limitata, così come previsto dalle leggi regionali, e non è rivolta a un pubblico indifferenziato ma solo a particolari soggetti predeterminati. Facevo l'esempio: gli alunni e le famiglie degli istituti scolastici, gli iscritti a catechismo appartenenti alle parrocchie per le case per ferie, i membri delle associazioni, ecco. E poi ancora chiede la circolare la discontinuità nell'apertura. Dice che proprio per questa particolare natura l'attività ricettiva non deve essere svolta per l'intero anno solare. E inoltre, ulteriore caratteristica, i prezzi richiesti devono essere inferiori a quelli confrontabili, diciamo, di strutture confrontabili. Allora, quando lei dice io sono andato e ho prenotato, allora quello non è un immobile esente, e vanno dette due cose. Primo, non è detto che non paghi l'ICI. No, non diamo per scontato che basta che abbia un nome come Santa Rita, Santa Chiara, no? Non paga. E secondo, seppure non pagasse, il comune ha tutti gli strumenti per chiedere il pagamento. Sì, faccio notare che tale è l'ambiguità di questa legge, che appunto non io, non noi, ma la Commissione europea l'anno scorso ha aperto una procedura di infrazione per aiuti di Stato, infrazione contro lo Stato italiano per aiuti di Stato che ledono il nome della concorrenza. Molti albergatori ci stanno scrivendo, citando casi che adesso non posso leggere tutti, di monasteri o luoghi di apparentemente di culto, che in realtà hanno decine e decine di camere che usano per i turisti. Però mi risponda anche alla seconda parte della domanda. In questo momento, lei, adesso non voglio la posizione della diocesi, ma la sua posizione, che immagino essere una cattolica, non riterrebbe come gesto su alcuni immobili, quelli, diciamo, si chiede un sacrificio enorme al paese, 20-25 miliardi di manovra, 2012 in cui l'Italia andrà in recessione, tutti devono tirare la cinghia, e fare un gesto, un beau geste, con in francese, un gesto, diciamo, nobile su questo, o no? Allora, personalmente, lei mi dica. Lo dicevo all'inizio, non è detto che la situazione che giustificava 20 anni fa questa legge persista tuttora. Si può verificare, però ripeto, rendiamoci conto che questo gesto viene chiesto all'intero mondo del non profit. Insisto per questo, perché in questo momento ci sono alcuni bisogni a cui il mondo del terzo settore dà risposta, soprattutto con l'arretramento dell'ente pubblico. Quando a questi enti vengono ridotte le agevolazioni, siano ICI o siano di altre nature, attenzione che questi enti non potranno più rendere i servizi, ma i bisogni restano, e allora dovrà rispondere l'ente pubblico aggravando il suo bilancio, o bisognerà che risponda il cittadino, in genere il meno agiato, che è quello che si rivolge a questi servizi, in un momento in cui anche le famiglie stanno facendo dottoressa, fatica. Ho capito, però non mi sposti l'oggetto. Lei è molto brava e preparata, per questo l'abbiamo invitata, però non mi sposti l'oggetto, nel senso che è chiaro che il mio riferimento non era al mondo del no profit che deve pagare di più in senso stretto. Guardi, lei mi ha fatto prima l'esempio delle scuole, le faccio l'esempio che conosco, la diocesi di Milano. Le parrocchie della diocesi di Milano gestiscono circa 220 scuole materne, no? Lei faceva l'esempio delle scuole. Allora, le assicuro, perché lo conosco, che le scuole materne della diocesi di Milano chiudono in perdita. Ma non solo le nostre, perché si tengono basse le rette, perché si favoriscono le famiglie bisognose. Sì, allora, sulle scuole, io non mi permetto di contestare, soprattutto sulle scuole materne di Milano, sulle scuole, diciamo, superiori, adesso se mi dice che anche certi collegi cattolici chiudono in perdita, vabbè, faccio sempre l'esempio di Milano, le scuole diciamo di grido della diocesi di Milano sono gestite da enti societari, quindi non hanno agevolazioni di nessun tipo, e però si chiamano magari con un nome religioso. Vabbè. Allora, no? Adesso io devo passare anche alla borsa, le dico, siamo sempre molto diretti in questo programma, lei è brava, preparata, ma non mi ha convinto. Quello che però riconosco è che ha una bellissima voce, le faccio i complimenti, perché insomma, qua, se volesse tenere un programma radiofonico, quella ce l'ha grazie al dipendente della diocesi di Milano, settore tributario dell'avvocatura della diocesi, dottoressa Patrizia Clementi. Buonasera. Se può fare un complimento, mi guarda strano al tecnico. E a proposito di bellissima voce, Livia Zancaner. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Anche tu hai una bellissima voce, vabbè, non posso rispondere alle decine di messaggi che stanno arrivando sull'ICI, ai luoghi non di culto, di proprietà della Chiesa Cattolica. Le cifre ve le ho snocciolate prima: è il primo proprietario al mondo di immobili la Chiesa, 1 miliardo di metri quadri divisi in 100.000 immobili per 1.200 miliardi di euro. Attenzione però, in questo l'abbiamo precisato, molti di questi sono immobili di culto vero e proprio, immobili no profit. Sulle cliniche, sugli alberghi e sulle scuole, io non, personalmente, l'avete capito, non sono d'accordo. Cioè, se l'ICI c'è per tutti, a maggior ragione se adesso si andrà a una stretta sull'ICI anche per tutti i cittadini, una stretta sulle pensioni e quant'altro. Comunque, Livia Zancaner, vabbè, l'accordo sul mezzo punto in meno di commissione sugli swap, ci sono 50 punti base. Di meno di tasso di interesse sull'operazione di swap in dollari ha fatto girare tutte le borse, più 4,40% Milano, più 4,20% Parigi, più 5% Francoforte, più 3,16% Londra, 1,34 il rapporto di cambio euro-dollaro, le banche sono tutte in super rialzo, facciamo che l'elenco io, tu mi dai invece i temi più specifici. Popolare Emilia Romagna più 12,5%, Mediobanca più 7,70, Banco Popolare più 7,5, Popolare Milano più 7, Ubibanca più 6,80, ancora Intesa San Paolo più 6,14, Mediolanum più 5,60, cito tutto il settore finanziario, non vedo Unicredit, ma adesso ve la trovo. Generali più 2,5%, eccola qua, Unicredit più 3% e Fondiere Assai più 1,21%. Tra l'altro c'è un aggiornamento dell'European Banking Association sulle nuove stime di fabbisogno di capitale, no? Sì, infatti sul mercato vi è attesa appunto per la decisione dell'EBA, che è l'autorità bancaria europea, sulle nuove stime, sui nuovi dati, sulle ricapitalizzazioni, un aggiornamento che è atteso per la settimana prossima. Secondo gli esperti di mercato, notizie positive potrebbero arrivare per le banche che avevano evidenziato maggiore necessità di capitale, quindi MPS a Milano e il Banco Popolare. Bisogna ricordare inoltre che ieri il Banco Popolare ha comunicato un impatto positivo da alcune da da alcuni movimenti, chiamiamoli così, extracontabili, sull'utile quindi di fine anno di 203 milioni di euro, e il titolo ha guadagnato il 7,56%. Allora, ancora sul ragazzi, io capisco che oggi i mercati stanno festeggiando, ma chiedere una votazione sia la voce più bella della Zancaner o l'avvocato della diocesi di Milano, adesso va ben tutto, forse sta crisi sta dando anche la testa a qualcuno, qui batte lo spread in testa, diciamo. Andiamo avanti con il Banco Popolare, dove si attendono notizie positive, sarebbe anche ora. Sì, infatti quello che dicevamo prima, che appunto sono attese notizie positive per quanto riguarda gli aggiornamenti sull'Eva, anche se bisognerà aspettare comunque la settimana prossima. Luxottica, qui ci sono voci non confermate, a meno che non sia uscito qualcosa che mi è sfuggito, e correggimi casomai, Livia, voci di un'operazione importante per Luxottica, e il titolo infatti è quello che cresce meno, più 0,30%, dico infatti perché è un'operazione in cui Luxottica va a sborsare dei soldi, prego. Sì, infatti bisogna sottolineare però che in mattinata il titolo comunque ha segnato un forte rialzo, poi ha chiuso appunto poco sopra la parità, forse anche per l'indebolimento del dollaro nei confronti dell'euro dopo la mossa delle banche centrali. Le indiscrezioni che al momento non sono state confermate si riferiscono a un'acquisizione in Brasile, quindi della brasiliana Tecnol, per un valore di 120 milioni di euro, un fatturato della società intorno a 200 milioni di euro. Certo, si tratta di un forte sborso, ma alcuni esperti comunque giudicano positivamente la notizia. Resta con noi, non ci lasciar, così unisco le due cose, tema della ICE, la Chiesa prima e le borse adesso, c'è il traffico. No, respiro perché c'è chi scrive: con la Chiesa lei mi è sembrato prevenuto e poco scientifico. La miseria, abbiamo citato una sfilza di dati, non si dice che io sappia. Che io sappia è una forma verbale per dire, per quello che a noi risulta come dati, questi sono i dati sul possesso di immobili da parte della Chiesa. Prevenuto assolutamente no, se fossi stato prevenuto dicevo due cose, non invitavo un ospite, piena di dati e di elementi per controribattere. Livia Zancaner, continuiamo con i titoli in borsa invece. Telecom Italia Media, anch'essa si è mossa bene. Finmeccanica, domani c'è un CDA positivo per il futuro di Guarguaglini, futuro mi sembra molto molto incerto. Sì, allora domani appunto c'è il CDA decisivo sul destino del presidente Guarguaglini, che è coinvolto nell'inchiesta sulle tangenti ENAV. All'ordine del giorno, in particolare via la revisione delle deleghe, ancora però non è noto se verrà azzerato l'intero consiglio e più che altro se Guarguaglini darà le dimissioni. Dimissioni finora smentite, finora escluse da Guarguaglini, anche se il governo si è augurato una rapida e responsabile soluzione della vicenda, quindi bisognerà aspettare domani. Sì, con massimo rispetto per un manager che abbiamo avuto ospite più volte, che ha gestito, lo ribadisco, Finmeccanica fino a un certo periodo, una bellissima azienda che cresceva, forse bisogna capire l'opportunità anche in questo caso. L'opportunità l'abbiamo sollevata nei confronti della Chiesa Cattolica su certi immobili, la solleviamo senza mettere in parallelo le due cose anche nei confronti di Guarguaglini. Comunque, migliori peggiori in assoluto, abbiamo visto Piaggio essere un po' debole oggi, o sbaglio? Sì, Piaggio viaggiava in territorio negativo, poi ha guadagnato lo 0,7%, quindi è decisamente meno dell'indice. Qua c'è una notizia, nel senso che Standard & Poor's, l'agenzia di rating, ha rivisto le prospettive di Piaggio da stabili a negative, pur confermando il rating. Gli esperti ritengono che se dovessero fallire le trattative in corso con le banche per il rifinanziamento del debito in scadenza a dicembre, la liquidità potrebbe non essere più adeguata, quindi comunque i riflettori restano puntati sulla società. Allora, Saras più 22%, non ho visto notizie, me lo confermi, Livia? Sì, non ci sono notizie, sono un recupero del titolo negli ultimi giorni. Alla faccia, 22%, Richard Ginori più 17,90%, Elen più 14,24% e Salvatore Ferragamo più 13%. Ancora invece chi perde, Seat pagine gialle, pagine nera l'abbiamo chiamata, meno 16%. E poi antichi pelettieri, meno 8, 60, Sopaf, meno 6, 60%. Grazie a Livia Zancaner, Radio Colli sulle 24 ore. Arrivederci. potremmo lanciare una rubrica ve l'avevo detto. Perché lo dico? Perché abbiamo scovato un analista. Ogni tanto noi con gli analisti ce la prendiamo molto, li critichiamo soprattutto le società che mettono analisi, perché non capiamo se sono in conflitto di interessi. Però c'è una classifica che fa l'agenzia di informazione finanziaria Bloomberg su chi ha selezionato i migliori titoli, chiesto in grado di prevedere come si sarebbero mossi i titoli. Beh, l'ha vinta un italiano, cioè primo posto un italiano, è un analista di Mediobanca, lavora a Londra, e il 7 febbraio del 2011 si chiama Antonio Guglielmi, emise un downgrade, cioè un abbassamento del giudizio su tutto il settore bancario europeo. Lo credettero in pochi, da allora però ha perso il 50% del settore bancario europeo. Antonio Guglielmi, che è responsabile del team londinese di Mediobanca per la ricerca azionaria sulle banche europee, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Le dico già che la rivoglio anche domani, perché oggi non ce la facciamo. Il tema dell'ICI sulla Chiesa, dell'esenzione dell'ICI per gli immobili della Chiesa Cattolica, ci ha preso giustamente tantissimo tempo. Però come ha fatto a prenderlo? Cioè, che pozioni ha usato? Che sfere di cristallo? Cosa ha fatto? Anche lei si è rivolto agli astri, come facciamo noi ogni tanto? Ci credo poco a quello. Diciamo che noi crediamo poco anche agli analisti, per cui siamo lì. Fate bene, molto spesso infatti è il puro buonsenso della diciamo della gente comune che ci porta a fare le, come dire, le chiamate più interessanti. Infatti, ma me la ridice questa, com'è? Il puro buonsenso, non c'è nulla di difficile, complicato o finanziariamente complesso che possa spiegare certe chiamate. In questo caso in particolare, come dire, la nostra è stata la combinazione di una view di un certo tipo a livello macro. Una visione di un certo tipo sui fondamentali dell'economia? E l'altra è di carattere regolamentare. Sul primo punto direi che banalmente sono 4 anni che rinviamo i problemi e ci rifiutiamo di decidere in Europa nell'attesa di un domani migliore, aspettando una ripresa macro, aspettando un superamento della crisi che in realtà non solo non arriva ma peggiora. Ebbene, molti di questi motivi secondo me dipendono anche dalla bassa patrimonializzazione delle banche, per cui avendo avuto la fortuna di una valutazione del settore bancario da metà 2009 a metà 2011 particolarmente ricca, si è persa l'occasione di forzare le ricapitalizzazioni proprio per migliorare lo scenario macro. Noi allora dicevamo le cose diventeranno peggiori, non migliori, mettiamo fieno in cascina. No, però mi scusi, lei la fa facile, dice basta avere un po' di buon senso. Devo dire che un mio vecchio, purtroppo scomparso, maestro di borsa, si chiamava Giovanni Svetlic, aveva un approccio molto, molto simile, ragionava con buon senso, guardava le notizie dei giornali, non stava tanto con grafici, soglie tecniche, resistenze, ora è sempre resistenza. Però la fa molto facile. Lei quando ha diffuso questo report, che reazioni ha avuto dalla comunità finanziaria? Non se l'è filata nessuno, mi risulta. Pomodoro in faccia, ma in realtà la reazione più interessante non è stata quella della comunità finanziaria, perché sai, il mercato è fatto di gente che compra e vende, e dove si cerca di prevedere un po' quello che Mi dica cosa le hanno detto, lei è un pazzo? No, mi dicevano che ero completamente fuori linea, perché in realtà le banche non avevano bisogno di ricapitalizzare, che i problemi erano superati e che quello non era il tema. Anche il management delle società, se lei mi chiede qual è stata la ricetta che mi ha portato lì, la mia è stata non parlare col top management delle banche, cosa che io dovrei fare regolarmente, perché gli input che ci davano erano: sto a posto, non lo faccio, non mi serve. Cioè lei mi sta dicendo che per fare il suo lavoro ha utilizzato il buon senso, si è messa a guardare come farebbe una massaia, se mi permette, se mi permette, era nei confronti della massaia, visto che gli analisti non abbiamo una grandissima stima. Comunque si è messo a guardare come fa una brava madre di famiglia i conti, i numeri, non ha intervistato i top manager delle banche per sentirsi raccontare sempre che i piani di sviluppo sono questi, e ci ha azzeccato. È devastante la sua considerazione, è devastante per la sua categoria in primo luogo, e anche per noi. Ma adesso qualcuno le ha chiesto scusa, ha detto bravo, oltre alla Bloomberg che l'ha premiata come numero uno tra gli analisti nella classifica della Bloomberg, ma qualcuno le ha chiesto scusa, qualcuno le ha detto l'hanno promossa, non lo so, mi dica. Ma guarda, guardi, prima di tutto nel mercato si dice che il mercato ha memoria corta, per cui come dire, intanto non l'ha chiesto scusa a nessuno. No, ma anche perché è ancora presto, perché in realtà secondo me molto deve ancora arrivare. Io poi ho avuto ragione sulla ricapitalizzazione delle banche italiane, che noi avevamo indicata come le prime potenzialmente in necessità di muoversi, ma adesso attendiamo molte banche europee un po' al capolinea, per cui... Allora, facciamo una cosa, Guglielmi, lei può domani, perché così in diretta le faccio l'invito, perché voglio la seconda parte... Voglio la sua visione ci di proviamo. Adesso. Ci proviamo. La sua visione di adesso e le previsioni future, visto che oggi le borse hanno festeggiato questo accordo sulla riduzione degli interessi sugli swap in dollari. Però resto molto perplesso da come lei ci è arrivato. L'hanno promosso o no? No. Vabbè. Domani la facciamo promuovere noi. Grazie. Intanto grazie per a lei. Antonio Guglielmi, responsabile del team londinese di Mediobanca, è appunto primo classificato nella classifica di Bloomberg sugli analisti che hanno beccato le tendenze di mercato. Domani lo vedremo in diretta da Sebastiano Barisoni. Veramente tutto, vi lascio alla programmazione di Radio 24. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.